delle sospese su terre lontane fanno più luce tra le foschie del mare, illuminando gli amori vissuti, allontanati, ma forse mai finiti. Penso e ripenso a quel bacio salato, forse rubato, dove sarà? Mentre nel cielo si accende l'aurora, l'anima vola. Se mi verrai a cercare, avrai il calore di un raggio di sole. Se mi verrai a cercare, saprò riconoscerti e farmi trovare. Se mi verrai a cercare, potremo ancora viaggiare. Ma se andrai per la tua strada, ricordati di me. Is this love that I'm feeling inside hurting my pride? 'Cause when you're standing before my eyes, it's like a million landslides. No more games, no more lying. If you leave me, no more crying. I'm stronger, I wonder. Penso e ripenso al tuo fiore bagnato, quanto l'ho amato. That's what we sing. Se mi verrai a cercare, arriverai come un'onda del mare. Se mi verrai a cercare, saprò riconoscerti e farmi trovare. Se mi verrai a cercare, potremo ancora viaggiare. Ma se andrai per la tua strada, ricordati di me. Tra mille orizzonti, profumi e altri sguardi, tra sogni sognati insieme. Yeah, yeah, yeah. Di un raggio di sole, se mi verrai a cercare, saprò riconoscerti e farmi trovare. Se mi verrai a cercare, faremo ancora l'amore. Ma se andrai per la tua strada, ricordati di me, perché comunque vada, sarò lì dentro. Se mi verrai a cercare, sarò lì dentro te.